Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. È l'unico appuntamento pre-pasquale con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, perché poi nella coincidenza del Triduo Pasquale la consueta rubrica Diritti e Rovesci non andrà in onda, ma poi ci ritroveremo dopo Pasqua con altri argomenti, a seconda poi di come cadono i giorni festivi. Ben trovato intanto al presidente dell'Adico, Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Mirko, e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, pochi giorni a Pasqua, l'altro giorno nel secondo appuntamento settimanale parlavamo dei prezzi, adesso andiamo ancora più approfonditamente nell'indagine, nella consueta indagine prepasquale per pensare alle abitudini, quindi i pranzi, le cene, le vacanze per chi potrà farle, dati che immagino poco confortanti. Sì, come ogni anno l'Adico normalmente tende sempre a promuovere un'indagine presso i propri associati e verificare un po' anche quest'anno, come l'anno precedente e anche nel 2012, cosa le persone faranno a Pasqua, quanto spenderanno, se andranno via e quant'altro, giusto per capire anche in funzione di questa crisi, di questo malessere che c'è ormai, che attanaglia un po' anche le famiglie, e vedere un attimino cosa cambia. E certamente, come hai anticipato tu, i dati emersi non sono certo confortevoli, perché su un campione di 500 persone che hanno risposto è risultato sostanzialmente che 6 su 10 ha dichiarato di rimanere a casa, e quindi un dato che sostanzialmente conferma un trend che già negli ultimi anni sostanzialmente non è mai andato a modificarsi. Quindi non Pasqua con chi vuoi, ma Pasqua a casa. Addirittura quest'anno sostanzialmente le persone hanno proprio dichiarato questo, si sposteranno solo per andare da amici, parenti, ma non certamente andranno in qualche albergo o in qualche altra struttura ricettiva come negli anni passati, quando non c'era questa crisi, erano più consoni di frequentare. Certamente un'indagine che è andata a monitorare le persone, le famiglie cosa fanno a Pasqua, ma anche tenendo conto che c'è un importante ponte come quello del 25 aprile, e anche qui certamente i dati non sono stati affatto incoraggianti, tant'è che, come detto, addirittura il 71% non potrà permettersi neanche di andare al ristorante, e tra quei pochi che ci andranno la spesa media non supererà i 30 euro. Al ristorante 30 euro, insomma, è un ristorante economico. È un ristorante economico, anche perché normalmente a Pasqua si tende a pagare sempre un po' di più rispetto a quello che in altri periodi ci sono delle normali tariffe, considerato appunto la festività e il personale che è chiamato a lavorare in quel giorno. Però anche un'altra curiosità, per esempio, che tra coloro che hanno dichiarato di spostarsi, per esempio, il 62% prevede di utilizzare l'auto propria, il 25% l'aereo e solo il 13% il treno. E normalmente si cercherà di viaggiare con la famiglia al seguito, questo quindi andrà a incentivare l'uso dell'auto propria rispetto ai mezzi pubblici, che se dobbiamo considerare i componenti della famiglia diventano più antieconomici rispetto che non rifornimento alla pompa o un pedaggio autostradale. Quindi devo intuire, scusa, che utilizzando l'auto le distanze non saranno lunghissime, quindi anche le mete saranno abbastanza vicine a casa. Ah sì sì, non saranno assolutamente lontane, e addirittura si cercherà proprio la formula dell'ospitalità presso parenti e amici, che questo, diciamolo pure, anche se tristemente, è un po' l'aspetto positivo della crisi: si cerca di stare più assieme e di limitare le gite, più che altro nel giorno di Pasquetta o al sabato, per chi, se pensiamo al ponte del 25 aprile, anziché valutare la possibilità di pernotti. E mi ricordo come negli anni precedenti, per esempio, primeggiavano soluzioni come bed and breakfast e spa, quindi una vera e propria ridimensione, ma soprattutto motivata da non tanto una crisi che le famiglie stanno attraversando, che è un dato che certamente è stato confermato, ma quanto una preoccupazione per il futuro, al quale le famiglie hanno dichiarato praticamente di non voler sostenere spese, perché ritengono che è meglio avere un gruzzoletto da parte per far fronte a quelli che potrebbero essere imprevisti o periodi di malgrado. Parlavi della benzina, degli spostamenti in automobile. Per fortuna, almeno quei prezzi alla pompa non sono aumentati, anzi forse in alcuni casi sono anche diminuiti negli ultimi mesi. È proprio di oggi che abbiamo iniziato a fare un monitoraggio dei prezzi alla pompa e bisogna dire che in questi giorni si sono mantenuti. Certo, abbiamo fatto un monitoraggio oggi proprio a scopo di prevenire quelli che potrebbero essere le solite strategie che adottano i benzinai quando la vigilia di certi esodi, di conto esodi, tendono sempre a modificare all'insù un prezzo di rifornimento, anche se, come ho detto, quest'anno non saranno attese certamente giornate da bollino rosso, se non per le gite fuori porta di poche che saranno su piatto nelle colline o al mare, ma che sostanzialmente si riducono a una giornata di andata e ritorno, ma non certamente ci saranno situazioni, come detto, da bollino rosso che con chilometri di coda. Ecco, aspettiamocelo le code al rientro da Jesolo, se poi anche le giornate saranno belle. C'è il ponte del 25 aprile, citavi, perché cade di venerdì il 25, e poi c'è anche il primo maggio, è un altro ponte, ma che si rischia di scavalcare praticamente senza effettive vacanze. Sì, dire amico che anche il ponte del primo maggio certamente è visto con un certo interesse, e tra le varie soluzioni e strategie anche qui le persone, per coloro che hanno deciso di spostarsi, c'è l'albergo sempre come prima scelta, poi c'è il 30% bed and breakfast, i restanti 20% ha deciso che sceglierà all'ultimo momento in base all'offerta più conveniente, e qua torna in voga sempre internet e quelle che sono le offerte last minute, di cui noi invitiamo sempre di fare molta attenzione e adottare le dovute precauzioni quando appunto si decide di prenotare con questi strumenti. Dunque, i consigli in questo senso sono sempre validi, ma vale sempre la pena ripeterli. Noi auguriamo a Carlo Garofolini e alla sua famiglia, tutta la famiglia allargata dell'Adico, buona Pasqua, perché questo, come detto, è l'unico appuntamento di questa settimana santa, ma ci ritroviamo subito dopo la festività con altri argomenti da affrontare. Grazie Carlo, buona Pasqua. Grazie a te amico, io rinnovo gli auguri a tutta la redazione e a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.